zu che fila dritto sfuggendo a tutti i guai. Non torna indietro e non è mai caduto, lo sai, nell'imboscata tesa dai giorni bui. Strano appetito, strano silenzio il suo, divora zitto tutto ciò che non sai. È il suo orologio che non si è mai fermato, lo sai. Cammina lento ma non si inceppa mai. È quell'orgoglio di cos'è fatto, sembra di legno ma è un metallo. È il suo tesoro che non si è mai trovato. Quel fiore rosso che non si schiude.